Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. I sogni son desideri. Nel giro di un anno si è detto: l'accordo sulla legge elettorale è possibile. L'accordo sulla legge elettorale è vicino. L'accordo sulla legge elettorale sta per essere raggiunto. L'accordo sulla legge elettorale? Anche stasera. L'accordo sulla legge elettorale anche domattina. L'accordo sulla legge elettorale è a un passo. L'accordo sulla legge elettorale in 2 ore. Mai vista tanta coerenza. Il sogno realtà. Allora, Giovanni Toti, consigliere politico di Berlusconi, buongiorno. Con il voto di ieri, i sogni vostri, quelli di Renzi, continuano a marciare uniti, però. Più che altro avere una legge elettorale penso sia il sogno del paese. Sì, ma insomma, dopo il risultato di ieri mi sembra che il percorso continua. Ma ce l'auguriamo tutti. Noi con Renzi abbiamo sottoscritto un patto per dare a questo paese una legge elettorale che abbia principalmente il compito di garantire il bipolarismo, certo, così come è stata tutta la Seconda Repubblica, e la governabilità. Ma ovvero, l'obiettivo, prende i voti dei cittadini, va a Palazzo Chigi e decide che d'accordo, fare per il paese. D'accordo, ma l'obiettivo di fare le riforme dopo ieri è più vicino, secondo lei? L'obiettivo di fare le riforme mi sembra vicino come il giorno prima e spero uguale, vicino come domani, uguale identico. Ecco, allora parliamo. La nostra c'è. Parliamo di domani. Parliamo di domani. Renzi, si gioca davvero tutto domani? Beh, si gioca molto. Lei ha detto lui a caricare questo, sì, mercoledì che ieri ho definito, sì, infatti, di tutte queste aspettative. Ecco, fino adesso, mi scusi, Renzi ha semplicemente enunciato i problemi di questo paese, che sono molti e li condividiamo. Riforma, sì, del lavoro, riforma, certo, della burocrazia, bisogno di abbassare le tasse. Domani arriva il primo provvedimento. Ecco, per domani, mi scusi, ma sì, il tempo stringe. Il presidente della Confindustria Squinzi attacca durissimo oggi sul Corriere della Sera, dice: meglio un lavoro in più che pochi euro in busta paga, cioè in tasca degli italiani. Una strada obbligata secondo loro. Secondo lei? Beh, è la visione di Confindustria. No, ma io le chiedo, ma dato che l'alternativa è IRPEF o IRAP, lei dove sta? Guardi, secondo me sono due esigenze che vanno compenetrate. Io non so quanti soldi ha trovato Renzi, perché francamente su quei conti c'è ancora grande, grande buio. Ieri Padoan all'Unione Europea ha detto che finanzierà tutto con la spending review. Dalla spending review non mi pare che ci siano 10 miliardi di euro. Lei si aspetta un taglio sull'IRAP o sull'IRPEF? Tutte e due non sarà possibile, Renzi, lo sappiamo. Renzi mi pare che sia più orientato, diciamo, più orientato a un taglio sull'IRPEF, così sembra di aver capito da queste ultime ore. Lo vedremo, è lui al governo. Lui, certo, no, ma io le chiedo la sua di opinione. Intanto voi che cosa preferireste, non potendo fare entrambe le cose? Non potendo fare entrambe le cose, io credo che dare un poco di sollievo alle famiglie e aumentare i consumi aiuti anche l'impresa, però capisco perfettamente il punto di vista di Squinzi. Senta, in ogni caso Renzi alla Camusso, che minaccia lo sciopero, dice: avremo i sindacati contro, ce ne faremo una ragione. Beh, un linguaggio abbastanza inedito, no? Mi sembra una prova muscolare, vedremo come va a finire. Io posso solo rilevare che statisticamente tutte le volte che si è andato a un braccio di ferro con il sindacato, alla fine al paese non ha fatto bene dal 1994 in poi. Meglio trovare un accordo con il sindacato. Detto questo, Renzi fa benissimo andare dritto per la sua strada. Sì. Alla fine non è che la concertazione abbia dato tutti questi risultati. Vabbè, quindi allora è una strada diversa, un linguaggio diverso. Beh, il linguaggio di Renzi ci ha abituato, diciamo, a un linguaggio di questo tipo, è molto, molto efficace, poi bisognerà vedere cosa farà nella realtà. Senta, ma sul Job Act, se ci sarà l'assegno minimo di sussistenza per tutti, voi siete d'accordo o no? Anche lì dipende. No, ma sì o no, mi dica se siete d'accordo o no. Poi sta a lui trovare i soldi. Non si può, non si possono fare con l'accetta queste cose. Non è con l'accetta. Allora bisogna rivedere, con la chiarezza. Bisogna rivedere gli ammortizzatori per sociali, gli ammortizzatori nel nostro paese, sì, bisogna rivedere la cassa integrazione, soprattutto quella in deroga. Sì, bisogna vedere con l'assegno minimo che cosa viene agganciato. Viene agganciato a un corso di formazione permanente, a un mercato del lavoro che esattamente funziona. Non è solo l'assegno minimo. No, naturalmente. A pioggia non si può finanziare e non funziona e crea probabilmente più disoccupazione di quella che c'è oggi. Un assegno, una revisione degli ammortizzatori sociali legata a dei corsi di formazione permanenti veri e un piano di reinserimento del lavoro di chi ne viene espulso serio, quindi, può funzionare. Quindi lei vede un reale problema nella cassa integrazione in deroga? No, io vedo rifinanziata ogni volta senza un obiettivo concreto. Io vedo un reale problema nel nostro sistema di ammortizzazione sociale e di reinserimento nel mondo del lavoro che non funziona, questo vedo. Certo. Ci vuole un piano articolato per rivedere tutto questo aspetto e vuol dire fare una riforma del mercato del lavoro legata a una riforma degli ammortizzatori sociali. Senta, lei e trovare le risorse per finanziarla, e tutte e tre le cose non sono facili. Appunto, auguri a Renzi. Auguri a Renzi davvero. Lei dice che Alfano si è spinto, ieri diceva, su una strada uguale a quella di Casini e Fini, davvero lo pensa? No, io penso che chiunque abbia pensato... l'ha detto ieri nella sua intervista, sì. Ma certo, è un'analisi storica più che politica. Chiunque abbia provato a deberlusconizzare il centrodestra italiano non ha fatto una buona fine. Se questo è l'obiettivo di NCD, rivedo su una brutta china. Però sulla giustizia parla il linguaggio del cavaliere. Può essere marciare divisi per colpire uniti con Alfano? Ma io spero che sia colpire uniti, loro sono nel PP, noi siamo nel PP, si dichiarano nel centrodestra, noi siamo nel centrodestra, e quindi la legge elettorale prevede che i partiti del centrodestra e i partiti del centrosinistra si debbano coalizzare per raggiungere la soglia del 37%, e quindi è possibile. Io mi auguro, ma non solo sulla giustizia, ma adesso un accordo politico largo con gli amici del nuovo centrodestra quando si sarà il momento di andare alle elezioni, così come con Fratelli d'Italia e tutta la coalizione, tutti quei partiti che si dichiarano nel centrodestra. Senta, ma per Berlusconi lei prevede domiciliari o lavori socialmente utili? Ma io non faccio l'indovino minore. È una previsione, insomma. Io dico che la sentenza che ha colpito Berlusconi è ingiusta, che non dovrebbe avere né i domiciliari né i servizi sociali. Va bene, ma mi auguro che i magistrati, dopo aver imposto al paese questa lacerazione con questa sentenza, si rendano conto che privare i moderati italiani, alcuni milioni di italiani, del loro leader o della possibilità del loro leader di fare una campagna elettorale sarebbe un ulteriore... E quindi lavori socialmente utile, se capisco, tradotto nell'alternativa. Lavori sociali, lei pensa che sarebbe meglio o più giusto lavori socialmente utili? Io penso che il presidente Berlusconi deve mantenere la più larga agibilità politica perché rappresenta i moderati in questo paese e la magistratura ne deve tenere conto. Ecco, se c'è Mario Secchi, una domanda al volo. Buongiorno. Allora, noi andiamo verso un appuntamento fondamentale, le elezioni europee. La Lega è no euro, Fratelli d'Italia pure, Grillo è no euro, cioè c'è un fronte no euro molto vasto che è concorrenziale a voi. Sarete anche voi no euro? No, non saremo no euro. Non saremo no euro, anche se riconosciamo le ragioni di molti partiti che in questo momento prendono di mira la moneta unica. C'è la più grande crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni europee che si sia mai vissuta in 50 anni. Pietrangelo Buttafuoco, una domanda anche. No, chiedo scusa, ma perché siamo molto... La domanda molto è fuori questa, col tempo. Francesco Storace, leader della destra, è entrato in Forza Italia? Non mi risulta. Va bene. Ci risulta. A lui risulta. Grazie. A lui risulta. No? Francesco Storace... Si è dimenticato di dirglielo. No, Francesco, può darsi che si siano dimenticati di dirmelo, ma Francesco Storace è uno di quei politici che certamente sta nell'area del centrodestra e con cui parliamo e parleremo nel prossimo futuro. Al momento non mi risulta che abbia la tessera di Forza Italia, non posso escludere che ce l'abbia nel prossimo futuro. Grazie, buon lavoro. Grazie. A voi, buona giornata. Allora, Simonetta Bonomi, padovana, sovrintendente ai beni archeologici della Calabria. Senta qua. I bronzi si trovano qui, nella sede del Palazzo della Regione, ospiti dal 2009. A contatto con l'ossigeno e se non in condizioni ideali, quindi mantenendo una temperatura e un'umidità costante, possono crearsi questi fenomeni di corrosione. Purtroppo da qualche giorno non è in funzione, c'è un guasto. Da quanti giorni manca il microclima adatto qui dentro? Pochissimi giorni, sono 2-3 giorni di fatto. Ripeto, è una questione di ore per il riallestimento. Dicono che non è la prima volta che si rompe il microclima dei bronzi. Lei invece diceva che temporaneamente si è realizzato. Da un giorno si era rotto. Allora chi dice verità, chi dice bugie? Il collocamento dei bronzi e la permanenza doveva essere un periodo di molto inferiore a quello realizzato. Fisiologicamente sono capitate altre interruzioni, ma sempre di breve periodo. Lui dice che da un mese che non ci... Un mese. È un motore che funziona 24 ore su 24, quindi purtroppo è un motore. Esattamente le posso dire da quando l'ho comunicato. L'ascoltatore ha sacrosanto diritto da sapere la verità e non essere preso in giro. È un diritto di informazione. Le ho detto non abbiamo scheletri nell'armadio, punto. Io capisco che è obbligatorio dire la verità perché siamo al servizio del pubblico, ma ha dato un'impostazione non corretta. Perché ha ripetuto 20 volte la stessa domanda, 20, l'ho sentito, dando l'impressione che ci fosse qualche retropensiero. E questo lo posso sapere. Il retropensiero è nato, che lei perché, dice due mi scusi signori, le abbiamo corretto. Una data, appunto. Signorina, gliel'abbiamo detta, ha evidenziato che c'era stata una discrepanza. Mi spieghi dove vuole arrivare? Perché non è corretto. Voglio solo il foglio con la data. Non è corretto. Ci faccio, io ho visto servizi. Io non lo so dove ci sia. Allora, avere il foglio. Signorina, con la è chiuso. Mi dispiace, io lo so perché ho continuato a parlare. Perché volevo dire, volere che si capisse che noi non abbiamo realmente scheletri, ma l'ha chiesto 20 volte, ma non ho la io risposta. Il servizio. Ma non ho la risposta, ma no, gliel'ho detto io 10 giorni più o meno. Io mi devo accontentare, allora però lo vorremmo vedere, perché se no ci sono gli estremi per fare. Lucio, il discorso è chiuso. Questo battibecco capitava quest'estate tra la nostra Marina Milone e Ezio Modica, che è un funzionario della sovrintendenza ai beni archeologici di Reggio Calabria. Ha sentito naturalmente questo battibecco spiacevole che c'è stato, niente di grave, ma insomma è il segno della tensione che gira intorno ai bronzi di Reace. Ecco, adesso finalmente sono in piedi i bronzi di Reace, però sono in piedi in un museo vuoto. Ecco, ha senso tenere due meraviglie invidiate da tutto il mondo in un posto dove è difficile arrivare, e comunque se si ci arriva si vedono queste due statue fantastiche, ma non c'è altro, è normale? Buongiorno dottoressa Simonetta Bonomi, buongiorno. Buongiorno. No, che non è normale, questo no. Per noi è stato però già, un obiettivo faticosamente raggiunto, quello di poterli rimettere in piedi in museo. Capisce che nel mondo ci ridono dietro, su questo punto. No, spero che ne abbia coscienza. No, ne ho coscienza, anche se non posso, come dire, farci nulla analizzando. Perché c'è abbiamo dei problemi per quanto riguarda l'avvio dell'appalto, peraltro la gara si è fatta l'anno scorso, proprio d'estate, per l'allestimento di tutto il museo. Speriamo che la semplificazione burocratica porti anche a accorciare questi tempi. Ma senta, non lo so, guardi, sulla questione delle gare ci sarebbe da dire parecchio, perché poi ogni gara è in balia di un ricorso o di più ricorsi. Vabbè, senta, ma lei scusi, dottoressa Bonomi, lei ha idea, in attesa delle gare e dei ricorsi, ha idea di come si potrebbero valorizzare i bronzi? Diciamo che sarebbe meglio prima che ci intendessimo su questa parola che tutti usano, lei che cosa valorizzare pensa, guardi, allora? Glielo dico cosa intendo. Glielo dico, ecco, dottoressa, vuol dire farli vedere a più gente possibile in condizioni ottimali. Lei sa che per visitare i bronzi c'è solo un numero di telefono, nemmeno un'email. Ecco, forse i turisti stranieri hanno dei problemi. Ma mi risulta che l'email ci sia. Risulta male. In ogni caso ne hanno visti tantissime persone da quando abbiamo aperto. Noi abbiamo riaperto al pubblico il 22 dicembre. Dottoressa, non sono tantissime, ma comunque diciamo che per fortuna qualcuno va a vederle. Pochi, potrebbero essere molti di più se fossero forse anche in attesa di risolvere il problema dei ricorsi del museo che ha dentro soltanto questo, potessero anche in qualche modo andare da qualche parte. No, beh, no. Su questo non sono d'accordo, no, non è questa la soluzione. Beh, è una delle possibili soluzioni. Lo so, è una di quelle sempre invocate. Possibili. Però le dico che sono anche due opere parecchio complicate da spostare. Sì, sì. Adesso si sposta di tutto oggi nel mondo, lei lo sa, no? Sì, si sposta di tutto, però per metterle in piedi, appunto nella settimana antecedente al 22 di dicembre, hanno lavorato diverse persone per un'intera settimana. Certo. Senta, lei lo sa che l'insieme dei 4.340 musei italiani incassano meno del Louvre? Non parlo... Lo so benissimo. Ecco. Lo so benissimo. Come mai, secondo lei? Perché c'è anche una diffusione molto capillare e non tutti hanno un'attrattiva così forte come può essere il Museo di Reggio Calabria. Beh, per adesso il Museo di Reggio Calabria c'ha i bronzi riaci, punto e basta. Punto, appunto. Solo con i bronzi siamo andati in maniera molto soddisfacente. Giovanni Valentini, sì. Domenica ha scritto su Repubblica che i sovrintendenti intendono la conservazione come la paralisi. Ecco. Non è così. Non è così. Non è una cosa in cui mi riconosco e non riconosco neanche i miei colleghi. Insomma, mi è passo un articolo abbastanza, come dire, di argomentazione un po' disinformata, se non altro, e anche un po' corrosa, se mi consente, che mi ha stupito parecchio. Grazie. Prego. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sarà vero quello che dice la dottoressa Bonomi, però i numeri dicono che gli incassi tra i siti archeologici e musei calabresi valgono 26 euro per ogni dipendente. Ecco, con questi numeri, i bronzi, era meglio lasciarli in fondo al mare, Pietrangelo? In teoria le opere devono essere viste nei luoghi dove sono custodite. Bisogna lavorare affinché queste opere possano essere contornate da una consapevolezza. Posso fare un esempio? C'è anche La Venere di Morgantina, un'opera che quando era al Guggenheim macinava milioni di visitatori. Adesso che è custodita nel luogo dove è stata scoperta, tutto al più farà 2-3 persone al giorno. E quindi è meglio se viaggia. È meglio se viaggia, ma deve essere valido sempre il principio di custodirla e soprattutto proteggerla dalla nostra stessa ignoranza. Insomma, cercare di farla diventare utile. Tutti i musei italiani, Mario, fatturano in termini di servizi aggiuntivi meno della metà di quanto riesce a fare il Metropolitan di New York. Ecco, è per mancanza di soldi, incapacità di innovare, che continua questa mancanza di introito, un po' come diceva anche Pietrangelo. Sai, io quando vado, ogni tanto mi capita, al British Museum, mi rendo conto che noi non riusciremo mai ad essere inglesi, ahimè. Ma almeno in questo potremmo. Va bene, c'è Mirella da Milano. Pronto, Mirella? Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, buongiorno. Io vorrei dare la mia testimonianza mi di una cosa veramente molto grave che è successa. Dica, mi dica. E io sono rimasta, sono da Milano, sono partita di proposito per vedere i bronzi di Reggio Calabria, di Riace naturalmente, e qua non ho fotografato nulla perché era proibito, non c'erano persone come pubblico, però poi quando sono andata al bookshop per poter comprare una fotografia, una cartolina, un libretto, mi hanno detto che era chiuso perché era scaduto il contratto dei dipendenti del bookshop e avrebbero aperto lunedì. Grazie signora, credo che lei credo che con la sua testimonianza riassume la discussione che abbiamo fatto. Mix 24. Daniele D'Alecco ci scrive: i bronzi difficili da spostare, quattro punti interrogativi, hanno raddrizzato la Costa Concordia. Forse hai ragione. Stavi dicendo nell'intervallo, mi stavi dicendo una cosa, Pietrangelo? Stavo dicendo che a Roma, ma figuriamoci poi nel resto d'Italia, nessuno sa che a largo di Torre Argentina, negli scavi di largo di Torre Argentina, venne accoltellato Giulio Cesare. In Germania hanno scoperto da poco una latrina romana e hanno fatto un battage. Tu cuoque, butta fuoco. Parliamo di Pompei. Il direttore del British Museum con la mostra su Pompei ha messo in piedi un evento mondiale. I numeri paragonati sono numeri che fanno male, perché gli incassi tra i siti archeologici e musei calabresi, l'abbiamo detto, valgono 26 euro per ogni dipendente, 26 euro per ogni dipendente. Invece, con questa mostra, il British Museum ha incassato 11 milioni di euro, 11 milioni di euro in 6 mesi. È un evento importante. Il nostro intento è garantire a più persone possibile di venire a visitare la mostra con questi oggetti straordinari, in modo diverso dal solito, e cioè in compagnia di esperti di fama mondiale che fanno parlare gli oggetti. Questa è la prima mostra su Pompei. Possiamo esibire una gamma di oggetti che non sono mai stati visti insieme. Un successo strepitoso, ho detto. Noi però abbiamo Pompei. Pompei quella vera, e non facciamo nulla. Senatore Riccardo Villari, ieri mattina, sulla stampa, Mattia Feltri ha raccontato una storia incredibile che riguarda Pompei, quando nel 2011 lei era sottosegretario ai beni culturali del governo Berlusconi. Ecco, buongiorno intanto. Buongiorno. Mi riassume brevemente. E Padesa, un consorzio francese, aveva offerto 200 milioni di euro per gestire Pompei. Poi cosa è capitato? È capitato che mi sembrò naturale convocare tutti i protagonisti di quella vicenda per valutare l'effettiva disponibilità al Ministero. Il colpo d'occhio, diciamo che era disincentivante, perché erano circa 15 soggetti intorno al tavolo, che erano i protagonisti. Per discutere. Per discutere. I francesi sono spaventati. No, li vidi perplessi, diciamo così. Però loro, nonostante tutto, confermarono la disponibilità a sponsorizzare i lavori a Pompei per una quindicina di milioni l'anno per 10 anni. Si poteva anche continuare, la cosa era molto interessante. Quando si entrò nel vivo della discussione, in verità le procedure erano talmente farraginose, e i francesi, bisogna dirlo, ci misero anche il loro carico, nel senso che pensavano di poterla risolvere in maniera un po' semplicistica, per semplificare tutto. Sì. Insomma, ci fu, diciamo, la contrapposizione tra chi giù le mani da Pompei, per intenderci, cioè, all'italiana, cercava di aprire le porte, insomma, alla fine non. Quindi, se ne senatore una. Villari, non se ne è fatto niente, però non se ne è fatto nulla, però poi nessuno voleva che capitasse cosa. Ma vede, il problema di Pompei, io ho la sensazione che c'è una gelosia da parte di quelli che ci lavorano, anche da parte del Ministero, almeno da settori del Ministero, che impediscono quello che ad esempio a Ercolano è stato possibile, cioè portare non solo soldi, che non mancano per Pompei, bisogna dirlo, perché no, no, ci sono i soldi, ma non si spendono. Non si spendono, esatto, c'è l'incapacità di spesa, ma quello che a mio avviso sarebbe utile, portare anche competenze, quindi anche risorse umane dall'esterno. Senatore Villari, senta che cosa ha detto Renzi su Pompei, a che tempo che fa? Le dico, quando abbiamo un patrimonio come quello, è mai possibile che si debba aver paura, uno, di privati che vogliono investire per rimetterlo a posto? Due, di strutture che vogliono gestirlo in modo più serio? Il 27 viene Obama a Roma, ha chiesto di vedere il Colosseo. Se io penso alle polemiche che ci sono state perché Diego Della Valle voleva mettere 25 milioni di euro per il Colosseo e non glielo facevano mettere, dico che siamo un paese che sta perdendo delle occasioni. Senta, Pompei continua a crollare pezzo a pezzo. È arrivato il nuovo ministro Franceschini, giustamente interviene, stanzia 2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria. Tutti contenti, almeno si farà quella. E invece perché non si riesce a fare neanche quella ordinaria? Perché? Il problema è chi la fa questa manutenzione ordinaria. Lo chiedo a lei. A Pompei ci sono più custodi che archeologi, restauratori e architetti. Parliamo di numeri impressionanti, 500 custodi da poche decine di architetti e di specialisti. Voglio dire, la manutenzione ordinaria chi la può garantire? Io la risposta a suo tempo la individuai. Ma c'è una società in house del Ministero che si chiama ALES, Arte, Lavori e Servizi, Tutela del Patrimonio Culturale Italiano, con la quale la sovrintendenza di Pompei poteva stipulare una convenzione in maniera che Ales fornisse. E invece perché non l'ha fatto? Perché questa società. Invece io mi resi conto che all'interno del Ministero, come al solito, c'era chi immaginava di mettere Ales sul binario morto e di non attivarla mai per poterla eventualmente poi sciogliere. Quindi una lotta fra funzionari? E là, no, là mi c'era una mia maliziosa interpretazione. Me lo dica con chiarezza. L'amministratore di Ales era il segretario generale precedente quello che c'era, i due, diciamo così, non avevano una comune visione, un'identica visione delle cose, per cui Alex non si insomma, due funzionari in lotta e la manutenzione ordinaria non si può fare. Immagino che la sovrintendenza si sia schierata perché capitasse invece. No, invece la sovrintendenza sa lì no, tant'è che ci sono atti in questo senso. Io mi feci in qualche modo delineare dall'ufficio legislativo del MIBAC una roadmap per mettere i manutentori a Pompei, mandai questa lettera alla sovrintendenza chiedendole di attivare la convenzione, cadde il governo, ma comunque sono passati 2 anni e mezzo, la manutenzione non si è attivata e la sovrintendente che allora era a Pompei adesso è a Napoli. Stata promossa. Perfetto, c'è Mario Secchi per chiudere che vuol fare una domanda. Sì, secca con risposta secca, ma 500 custodi, non sarà il caso di licenziarne qualcuno? Ah, lo dica a chi lo deve dire, licenziare. Ma lei li licenzierebbe, sì o no? Io penso che sicuramente noi abbiamo un numero di dipendenti, sicuramente vanno licenziare, mi sembra oggettivamente dire la cosa, certamente diciamo, non ce li possiamo consentire. L'alternativa è quella, grazie. Giovanni Valentini, editorialista di Repubblica, abbiamo fatto la puntata sull'editoriale scritto domenica, un pezzo nel quale sostiene che il patrimonio culturale è ostaggio dei sovrintendenti che intendono la conservazione, l'abbiamo sentito durante tutta la puntata, la conservazione dei beni stessi come sostanzialmente come una paralisi. Giovanni, è così? Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Ma io ascoltavo la vostra trasmissione, i bronzi di Riace, il Colosseo di Della Valle, vorrei ricordare l'auditorium di Roma che è stato fermo 15 anni perché c'erano dei reperti archeologici. Ora però io tu mi devi permettere di ricordare un fatto. Io ho cominciato a occuparmi di questi problemi nel 1975, quindi sto per compiere 40 anni anche se ormai sono in pensione. 40 anni di problemi. Ho cominciato, sì, di problemi, ed erano sempre quelli, questo è il guaio. Io cominciai facendo un'intervista per Il Giorno, un giornale per il quale allora lavoravo, al primo ministro dei beni ambientali e culturali, così si chiamava allora, e secondo me così si dovrebbe richiamare oggi, ambientali e culturali, che fu Giovanni Spadolini. Esatto. E Gaetana Feltra mi incaricò di fare un'intervista a Spadolini su questi temi. Da allora ho continuato a occuparmi, come credo sappiano in molti, non dico tutti, di temi ambientali e culturali e all'Europeo, all'Espresso, a Repubblica. Detto questo, ecco, ma questi poteri, diciamo, questi sovrintendenti, tu li attacchi veramente frontalmente, dici che sono poteri monocratici che non rispondono a nessuno e lì in fondo c'è il cancro. Allora, intanto io ho ripreso e citato fra virgolette, ma non lo dico per nascondermi dietro un paravento, dico per dire come stanno le cose. No, infatti io ho letto quello che ho citato fra virgolette delle espressioni di un signore che è stato prima presidente della provincia di Firenze, poi sindaco di Firenze e mi risulta che al momento sia il segretario del maggior partito italiano e, vedi caso, anche presidente del Consiglio, cioè di Matteo Renzi. Sono frasi, quelle sui poteri monocratici o sul fatto che che le sovrintendenze sono una struttura ottocentesca e quindi la cultura non può più basarsi sul sistema delle sovrintendenze, non sono espressioni che ho detto. Tu scrivi, Giovanni, del signor capo del governo. Renzi, dopodiché io penso che in molti casi, come ha scritto ieri su Repubblica in una lettera anche il presidente del FAI Andrea Carandini, c'è un certo fondamentalismo, una certa tendenza protezionistica di queste sovrintendenze. Io personalmente, ecco, ma come si può rompere questo immobilismo? È che abbiamo tempo. Ecco, io non ho mai pensato che vadano abolite le sovrintendenze, devono essere però riformate e soprattutto rinnovate, anche ringiovanite, lo dice un signore che ormai ha una certa età, anche ringiovanite nella loro composizione. Ecco, ma una soluzione come quella adottata a Roma per il Colosseo, abbiamo detto restauro di Della Valle, è la strada? Beh, non è l'unica, no, ma sicuramente è una strada. Tanto una. Noi abbiamo un patrimonio artistico, storico, archeologico talmente grande che non possiamo mai, non avremo mai le risorse per gestire bene tutto. Quindi dobbiamo sicuramente aumentare gli investimenti, e questo è un problema di politica generale. Stabilire delle priorità, perché non possiamo andare dietro a tutto. Dopodiché però rendere efficiente la gestione e, come tu hai detto in trasmissione giustamente, la valorizzazione. Però i soprintendenti si scandalizzano, ecco, quando si parla di valorizzazione, poi non si può muovere niente. No, la valorizzazione è esattamente quello di creare valore, insomma, valore culturale. Questi 11 milioni di euro con la mostra su Pompei fatta, sì, dal appunto, British, qualcosa ci deve insegnare, che dimostra che si può fare anche senza soldi pubblici, cioè se qualcuno si fa venire delle idee e prende delle iniziative nell'ambito non bisogna bloccarle, comunque almeno discuterle. Perché Della Valle non è un mecenate, non è il buon samaritano, una cosa che gli interessa. Però investe 25 milioni certamente per di euro, certamente per avere un'ultima cosa, un ritorno d'immagine, ma l'alternativa è l'abbandono, il un'ultima degrado, cosa perché siamo in pubblicità. Ho saputo di reazioni violentissime al tuo articolo che arrivano fino all'ex ministro Braide e Bene Culturale. È vero? Che cosa sì, è stato? Sì, ci sono state molte reazioni violente. Per la verità Brai poi aveva mandato una lettera a Repubblica che ha ritirato, alla quale io peraltro avevo già mandato una risposta al giornale. Oggi, mi pare, o ieri sera, ha pubblicato nel suo blog un articolo molto più ponderato, diciamo così. Vabbè, in cui intanto mi dà atto di essermi battuto per anni su questi temi e poi riporta la questione a una riforma. Quindi la riforma è il contrario dell'abolizione delle soprintendenze, sia chiaro, una riforma. Grazie, se il mio articolo, per quanto sasso nello stagno, per quanto provocatorio, come vedi, serve per animare una discussione. Grazie Giovanni, pubblicità. Mix 24. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Ma dica. Ma io volevo dire una cosa molto La dica. Semplice. Noi come paese non siamo in grado di fare sistema a favore dei beni culturali, e la dimostrazione è che mancano le infrastrutture per poter fruire in qualche modo anche di alcuni beni, per esempio i bronzi di Riace. Manca un'autostrada decente, manca un treno veloce che colleghi con Reggio Calabria, ma potrei parlare dei Sassi di Matera dove non c'è una stazione ferroviaria. Insomma, mancano le infrastrutture, questa è la sua come dire, dichiarazione, la sua opinione. Va bene, grazie, questo è vero. Mario, un commento su questo discorso che abbiamo fatto fin qua? Guarda, molto radicale se vuoi, ma via le sovrintendenze, hanno fallito, mi pare palese. Ampia riforma della missione del Ministero, dotazione potente di soldi e mezzi, accentramento a Roma o dove volete voi di tutte le competenze, niente alle regioni che sono enti pazzeschi, ancor meno alle province che vanno abolite, forse qualcosa ai comuni, ma pochissimo. Cioè questa roba va levata dagli enti territoriali perché non fanno assolutamente bene al paese. Pietrangelo, il problema è la testa. Niente alle regioni, ha ragione Mario, niente agli enti locali, ha ragione Mario, ma bisogna aggiungere un fatto. L'Italia è quella che di fatto ha cancellato l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole. Sì, certo. E se posso usare l'espressione infelice dell'attuale ministro dei beni culturali che ha definito il cosiddetto petrolio, dobbiamo una volta per tutte dire che noi siamo, rispetto a questo petrolio, inadeguati. È come se i sauditi non avessero saputo approfittare delle trivelle. Questo è un bel esempio. Ti dico solo che farò il booking a questo punto per la mostra dei vichinghi al British Museum. Devi vedere che cosa stanno preparando. Certo. Aperto il 6 marzo. Vabbè, cioè, andremo a vederlo. Che posso farci se mi fai sognare? Dove devo mettermi per non precipitare? Che posso dirti se non ho più parole? Pietrangelo, che posso farci se questa Italia fa sognare gli altri e non noi a questo punto? Questo è dramma, Francesco De Gregori, e il verso è tutto lì. Che ci interpreta posso farci se mi fai sognare? Penso a te. Capito? Ma che cosa bolle in pentola oggi nella pentola di Mario? Eccoci qua. Allora, bolle, senti. Mm. Vabbè, la pantera rosa bisogna trovarla, ovviamente. Sì, è come un po' la deflazione. C'è, ma non c'è, nel senso che... Comincia a intravedersi. Tutti la Banca Centrale Europea dice che ancora non c'è pericolo. Comunque, oggi usciranno i dati sull'andamento dei prezzi in Europa. È atteso, secondo alcune analisi e stime, un ulteriore calo a 1,3. Vediamo se è confermato o meno, sarebbe ancora sotto di 1,0,1. Tra un po' escono. Se succede, è un cattivo segnale. Non naturalmente. E restiamo sempre a cercare cose in banche centrali, così via, restiamo in Inghilterra. No? Allora, God Save the Queen, però anche un po' la Banca d'Inghilterra, perché insomma pare che sapesse da parecchi anni, 8 anni per l'esattezza, che c'erano problemi del cartello delle banche che manipolava i tassi. Ora, se il controllore non fa niente, siamo a cavallo. Vabbè, però questa è una notizia che non è così tanto per dire una cosa. No, è la prova provata che le banche fanno come gli pare. Insomma, facevano cartello sull'Aibor, hanno fatto cartello sul Forex, quindi sì, sul ma monetario. Che cosa, questo noi lo denunciamo, ma poi che cosa si deve fare? Adesso ultimamente sono stati fatti dei grossi procedimenti legali. Hanno messo insieme multe per parecchi miliardi di euro. Vediamo se le paghino. Salamini oggi ruba il mestiere a Mario Secchi. Che è allora successo? C'è successo questo: tutti scappano da WhatsApp e cresce Telegram, che sono messaggi crittografati a tempo garantiti dai russi. No. E la novità sta nel fatto che la gente scappa da WhatsApp perché sono spiati dai servizi americani e vogliono essere spiati dai russi. E no, perché i russi hanno una garanzia in più. Qual è? È quella di salvare la vita degli occidentali. Ma poi lo sai, vorrei aggiungere una malizia, Giovanni. Vuoi vedere che la mitica web tax stavolta Renzi gliela applica, visto che fanno un danno ai suoi amici americani? Dici, mamma mia, che malizia. Fuoco ai tech mi sembrava strano. In realtà è in versione corazzata Potionkin. Vabbè, visto che hai evocato spie, sentiamo James Bond. Bisogna mandarlo, secondo me, 007 in Ucraina, a Kiev, a Mosca e anche a Bruxelles, perché qua la cosa assai surreale, caro Giovanni, caro Pietrangelo e carissimi ascoltatori, è che l'Europa e gli Stati Uniti si stanno concentrando sulle sanzioni alla Russia. Resta però irrisolto il vero nodo, e cioè chi paga la cara rivoluzione. Le anime belle dovranno pur spiegarcelo prima o poi. Insomma, sono una cinquantina di miliardi, così a spanne, solo per iniziare. Apriranno il portafoglio? E poi, scusate, ma domanda così, è sempre per quelli che sono favorevoli alla cosiddetta autodeterminazione dei popoli, ma a senso unico. Perché la Crimea non può fare la secessione? Cioè, domande che io pongo sul tavolo e qualcuno prima o poi risponderà, evidentemente. Sottoscrivo. No, ma sai, fanno le rivoluzioni costano. Costano, basta sì. Pagare. Metti le sanzioni a Putin, che ha il gas, e Obama giustamente ha detto dobbiamo fare qualcosa per esportare energia, perché se no la politica estera della Russia dipende tutta dal gas ed è strategicamente vincente. Buongiorno, siete arrivati dopo molti anni al vero problema, e cioè che la politica estera oggi è la politica del tubo, e quindi... E quindi? Cari amici, ci dobbiamo spostare in Cina. Sentite che atmosfere soffuse, è la foresta dei pugnali violanti. No, volanti, scusate. Volanti. No, però un bellissimo lapsus. Pugnali violanti. Insomma, tutto questo cinema per dirvi che cosa? Che lo Stato concede il via libera per la costituzione di 5 nuove banche private. Qui chiudono e là aprono. Quindi, ancora una volta, Adam Smith è in Cina. Oggi, per la storia, come sempre insieme a Marina Milone, il nostro omaggio va a Stefano Vanzina in arte steno. Un omaggio firmato da Maite Carpio a quel genio gentile che ha saputo, come pochi, interpretare attraverso i suoi film, i suoi personaggi, il nostro paese in piena trasformazione degli anni 50 e 60. Al volo l'ultimo salamino, se ci sta. Io ho rubato la sigla Che tempo che fa, perché Kim Jong-un ha preso il 100% dei voti. Allora io chiedo a te, Giovanni, tu che sei un maestro nelle interviste, come faranno a Che tempo che fa? Quali saranno le domande? La prima, per esempio. Ah, terribile, terribile. Dice che non mi ricordo il tweet, una cosa di tweet, dove dormiva. Pubblicità.